Allora, sono passate da poco le 13, noi però abbiamo ancora da raccontarvi una serie di cose in preparazione, come tutti sapete, questa settimana cruciale di mobilitazioni e questa mattina ci sono state delle iniziative. Inizialmente una conferenza stampa abbastanza partecipata, ce la racconta una nostra redattrice che è al telefono. Ciao. Ciao a tutti e tutte. Ciao. Bene, allora c'è stata la conferenza stampa questa mattina, è appena finita, la conferenza stampa che abbiamo fatto diciamo ad un simbolico, andati in Banca d'Italia con uno striscione e abbiamo fatto appunto la manifestazione lì davanti per ribadire, insomma, per individuare per continuare a individuare, insomma, i responsabili che ci succede ogni giorno e soprattutto delle politiche di assenza. Infatti i nostri governi, quelli che ci succedono, i governi dell'emergenza e delle larghe intese, continuano a salvare solamente le banche e non danno alcuna risposta al resto della popolazione. La conferenza stampa è andata molto bene e sono intervenuti ovviamente i movimenti per la casa, gli studenti, i migranti, i rifugiati e tutti quelli che hanno partecipato alla costruzione di questa mobilitazione insomma partirà dal 12. Il senso della conferenza stampa è quello di parlare soprattutto della settimana che va dal 12 al 19, di spiegare le motivazioni che hanno portato alla costruzione di questa settimana. Infatti, prima di tutto bisogna dire una cosa, che in questi giorni c'è stata fatta una all'interno della stampa, quindi sui giornali e anche in altri mezzi stampa, una propaganda negativa nei confronti del 19, dicendo in continuazione che c'è un problema sulla manifestazione e anche sulla settimana, nel momento in cui dipingono le persone che costruiscono la manifestazione stessa e quelli che ci hanno come, insomma, degli alieni, quando in questo paese quando si cerca di individuare direttamente quelli che sono i responsabili, e quindi abbiamo usato anche parole come le parole dell'amministrazione sono sollevazione generale e assedio, quando si individuano i responsabili in questo paese c'è un problema proprio di copertura del dissenso e soprattutto di criminalizzazione del dissenso. Quindi quello che si è ribadito è soprattutto è anche questo, il fatto che non è possibile che quando si chiama una manifestazione, quando si chiama la sollevazione generale, che semplicemente chiamare il paese a scendere in piazza, uscire dalle case e a scendere in piazza contro questo governo, ma contro anche tutte le politiche che vengono anche oltre il nostro paese, quindi dall'Unione Europea, dei sacrifici, questo vuol dire che la gente, insomma, è un invito alle persone a scendere in piazza e a individuare i responsabili assediando i palazzi del potere, ed è quello che faremo. La manifestazione partirà infatti da San Giovanni alle 14.30 e finirà a Porta Pia. Perché finirà a Porta Pia? Perché c'è il Ministero delle Infrastrutture e si passerà durante il corteo dal Ministero dell'Economia e al Ministero delle Infrastrutture, perché una cosa che abbiamo sempre detto in questi mesi di costruzione dall'assemblea che abbiamo costruito alla valle e alla metropoli è quella di che è l'unica, insomma, opera che ci interessa, è quella del reddito alla casa per tutti. In questa conferenza stampa sono intervenuti i vari pezzi che parteciperanno a questa manifestazione, appunto i movimenti per la casa per quanto riguarda questa città, che nonostante appunto sono dei è un movimento organizzato, ma all'interno della nel movimento ci sono le persone che occupano la casa, non ci sono appunto gli alieni. Allo stesso modo i rifugiati e i migranti, che hanno ribadito anche la denuncia di quello che è successo in questi ultimi giorni a Lampedusa, ribadendo che in questo paese quando succede solo quando succedono delle tragedie si pongono dei problemi. Sono appunto delle lacrime di coccodrillo quelle dei politici. Anche in quella piazza i rifugiati e i migranti andranno a individuare i responsabili che sono comuni a quelli anche di chi in questo paese c'è successo quel giorno. Sono intervenuti anche gli studenti dell'università, dicendo appunto che loro già da Londra insomma parlavano di questi problemi, della crisi e dei tagli che sono stati fatti all'università, e anche di una precarietà diffusa all'interno dell'università. Infatti non si può certo parlare di studenti adesso in quanto tale, ma bisogna pensare che uno studente è contemporaneamente un lavoratore, è contemporaneamente un migrante di seconda generazione, quindi su quella piazza può ristabilire una connessione tra tutti questi soggetti. Un'altra cosa che si è ribadita nella conferenza stampa è che questo paese deve dare la possibilità a questo governo, chi ne è responsabile, dare la possibilità di far arrivare la gente a Roma per la manifestazione, perché non è ammissibile che solo quando organizzano le manifestazioni i partiti, i sindacati, quelli che hanno sostanzialmente i soldi per mobilitare la gente, è possibile fare una manifestazione ed è possibile la mobilità in questo paese. Devono consentire ai treni che partono da nord e da sud di partire e di quindi consentire la gente che non può permettersi un biglietto andata e ritorno in un fine settimana di arrivare a Roma. La manifestazione di Roma è stata anche costruita in modo da che non finisca solo in quella giornata, ma che ci sia una mobilitazione che duri anche oltre il 19 e che abbiamo la possibilità di tornare con maggiore forza anche ognuno nei propri territori e continuare la mobilitazione. Prendo le ultime due parole per fare una sorta di dire insomma gli appuntamenti che sono stati lanciati nella conferenza stampa, che è il primo appuntamento è il 12 con la giornata dei beni comuni e dei movimenti lotta per la casa, che faranno numerose iniziative, e la giornata del 15 che vedrà protagonisti soprattutto gli studenti universitari e gli studenti medi, ma ci saranno altre iniziative tutto il giorno, perché ricorda la giornata del 15, la giornata dello sciopero sociale che c'è in tutta Europa, quindi i compagni e le compagne in tutta Europa, la gente scenderà in piazza quel giorno. Qui in Italia si faranno anche delle iniziative che partiranno soprattutto agli studenti, ma che si allargheranno anche ad altri soggetti. Infine abbiamo la giornata del 18 dei sindacati di base con un concerto finale, infine appunto la giornata del 19 con la manifestazione che parte da San Giovanni. Bene, bene, davvero grazie per questo ampio resoconto non solo della conferenza stampa ma anche degli appuntamenti che ci aspettano la settimana ventura e beh certo speriamo insomma che servi a qualcosa anche così il fatto di confrontarsi con quegli stessi media che non hanno fatto altro che reiterare il classico dispositivo del G8 genovese per essere chiari, no? Quello cioè di creare allarme sociale, politico nei confronti di una manifestazione che ovviamente si declina per contenuti e variegati e che certamente sono quelli da mettere al centro della discussione e non le paure, il terrore. Oggi poi peraltro è quasi sempre identificato col NoTab, no? Si fa genericamente riferimento a questa figura non meglio precisata che equivarrebbe quasi, diciamo, no, al criminale, quando poi in realtà a comporre e a configurare insomma la molteplicità dei soggetti che daranno vita a questa settimana appunto è molteplice, varia e non si riassume solo nel NoTab. Peraltro appunto i giornali ne fanno una questione di lessico tutta giocata sul versante della paura, dell'allarme, del terrore. E insomma, speriamo che servi anche a questo, a magari cambiare un po' quelle che sono, no, i resoconti giornalistici, anche se dubito che questo possa avvenire, ma insomma, quantomeno ci si prova. Grazie Alessia e a grazie presto. A voi. Ciao. Ciao.